La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la Costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. L'articolo 137 ci dimostra che in alcuni casi anche i costituenti non riuscirono a mettersi d'accordo e quindi fecero degli articoli che rinviano a decisioni successive. Infatti l'articolo 137 doveva stabilire come si fa ricorso alla Corte Costituzionale e c'erano due teorie in Assemblea Costituente. Da una parte concedere il ricorso diretto, cioè ogni cittadino che da qualsiasi atto legislativo, atto amministrativo, sentenza si vede leso può ricorrere alla Corte Costituzionale. La seconda impostazione è invece quella più restrittiva, che non consente un ricorso diretto dei cittadini, ma consente solo il ricorso incidentale, cioè nell'ambito di un processo deve essere il giudice, quando applica la legge, ad avere il dubbio che quella legge sia incostituzionale e in quel caso manda gli atti, li rinvia alla Corte. Ovviamente è facile capire che siamo di fronte a due impostazioni completamente diverse, perché consentire un ricorso diretto alla Corte Costituzionale farà arrivare 10.000 ricorsi l'anno. Consentire invece un ricorso solo incidentale, solo da parte dei giudici, ne farà arrivare 500, 1.000, molti meno. Se guardiamo il panorama europeo dei paesi a noi vicini, alcuni hanno il ricorso diretto, Germania, Spagna, altri invece hanno il ricorso solo incidentale, solo operato dai giudici, Francia. I nostri costituenti non si misero d'accordo e quindi fanno un rinvio a un'ulteriore legge per determinare tempi, modi e condizioni di proponibilità dei giudizi costituzionali. Dopo qualche anno, infatti, con le leggi del 1953, si è stabilito il funzionamento della Corte Costituzionale e si è scelta la modalità di ricorso incidentale. Cioè il cittadino non può fare un ricorso diretto e immediato alla Corte Costituzionale, ma tuttavia nel corso di qualunque processo può proporre una questione di costituzionalità. Proponendo la questione di costituzionalità sarà il giudice, il singolo giudice, a valutare se rinviare gli atti alla Corte Costituzionale oppure se non c'è materia e quindi procedere nel processo. Facciamo un esempio banale. Ipotizziamo che ci sia un processo per omicidio. Sappiamo che l'omicidio è punito dal codice penale con non meno di 21 anni di carcerazione. Ipotizziamo che l'imputato, quando ormai sta per essere condannato, chiede al suo avvocato di proporre una questione di costituzionalità, dicendo: è del tutto irragionevole essere puniti con non meno di 21 anni, bisogna prevedere che invece si venga puniti con non meno di 19 anni. Ovviamente una questione del genere può apparire pretestuosa, perché rinviare gli atti alla Corte Costituzionale significa solo allungare i tempi del processo. Ecco allora che, ove veramente un avvocato proponga una questione del genere, il giudice la rigetta direttamente, non interrompe il processo perché ritiene la questione manifestamente infondata. Quindi, riepilogando, il costituente non ha scelto come far arrivare le questioni alla Corte Costituzionale. Ha fatto un rinvio, il rinvio è stato operato da una serie di leggi fino al 1953 e si è scelto l'accesso incidentale. Accesso incidentale che fa arrivare alla Corte Costituzionale meno questioni, ma in genere solo questioni serie, per cui la Corte si può concentrare a prendere decisioni importanti. La Corte Costituzionale, nei suoi 60 anni di operatività, ha rappresentato il vero paladino delle libertà e dei diritti, perché ha consentito di aprire l'ordinamento a importantissime innovazioni, proprio nell'applicazione continua e nell'interpretazione concreta della Costituzione. Ultima precisazione, l'articolo 137 al comma terzo specifica che le sentenze della Corte Costituzionale non sono impugnabili. Quindi significa che la Corte Costituzionale è l'ultimo giudice, per cui qualunque sentenza non può essere revisionata.